Ed ora, per le corrispondenze dal mondo, andiamo a sentire chi vive in Nord Europa, nello specifico in Danimarca, uno dei paesi più virtuosi a star sentire l'OMS. Ma sarà tutto vero? Salutiamo il nostro corrispondente e capiamo insieme cosa succede a Copenaghen. Ciao a tutti e a tutti. Vi racconto un po' com'è stata la quarantena qui. La Danimarca è stato uno dei paesi che ha applicato le norme, ha applicato delle azioni più dure immediatamente. Diciamo, il governo danese non ha esitato, appena si sono verificati i primi casi ha subito messo in pratica, ha subito chiuso tutti quelli che erano definiti lavori non fondamentali, quindi quelli legati alla filiera del cibo, ai lavori ovviamente legati alla sanità. Però chi poteva lavorare da casa, insomma, fin da subito ha iniziato a lavorare da casa, infatti non è da più di... Le scuole, anche scuole e università, sono state chiuse quasi immediatamente, anche se sono state molte critiche dal punto di vista di un sacco di persone che dicevano che questo avrebbe avuto impatti economici molto, molto forti, e i casi di coronavirus in Danimarca sembravano non giustificare queste azioni così, così forti. Però di fatto, insomma, i casi in Danimarca ad oggi sono stati morti, almeno sono stati poco più di 500, quindi comunque su comparati alla popolazione, al numero di abitanti, che sono poco meno di 6 milioni, è comunque un numero molto basso. Soprattutto se comparato per esempio con altri paesi scandinavi come la Svezia, dove il numero di morti è stato molto più alto comparato con quelle che sono state le misure adottate dal governo svedese, che contrariamente a quello che hanno fatto tutti gli altri paesi europei, ha avuto delle misure molto molto molto più blande. Non ha chiuso praticamente quasi nulla e non ha vietato diciamo l'aggregazione di gruppi di persone più grandi di 50 persone o una cosa del genere. Sì, quindi insomma la tattica della Danimarca in qualche modo pagato da questo punto di vista. Ah, ma la dinamica con cui si è applicato questo lockdown, almeno noi con l'esperienza italiana abbiamo visto che c'è stata una forte impatto mediatico per quanto riguarda questa responsabilizzazione del popolo, e d'altra parte una forte attività poliziesca per quanto riguarda le strade e l'approccio che c'è dalla parte dell'autorità sul singolo cittadino, comparato poi alla forte responsabilizzazione che ci viene data appunto dai media per far fronte a questa emergenza. Lì come è stata applicata? Sì, allora diciamo, io ho seguito un pochetto, ovviamente vivendo qui non ho la percezione di quello che succede in Italia, a parte quello che insomma mi arriva un pochetto dai giornali, dai telegiornali. In Danimarca, diciamo, l'applicazione, non ci sono stati episodi repressivi dal punto di vista che, non lo so, la caccia all'untore o l'additare la colpa della diffusione della pandemia a gruppi di persone che avevano degli atteggiamenti sociali particolari. Questo non c'è stato, tranne in un caso, qualche settimana fa, dopo che le misure si sono allentate un pochetto, in un quartiere di Copenaghen vicino al centro, Islambrugge, che è un quartiere universitario, quindi dove la presenza di studenti è molto elevata, anche stranieri, appena le misure sono allentate, sono tutti riversati sul canale, e la polizia è dovuta intervenire per distanziare le persone. Ma questo è l'unico episodio a cui, tra l'altro, non è stata data tutta questa importanza che probabilmente gli sarebbe stata data in Italia. È stato un trafiletto di un giornale, tutto è stato messo a tacere e basta. Io devo dire che la percezione mia è che c'è stato un grande, um, un grande senso di responsabilità delle persone che in qualche modo si sono vissute la città in questi ultimi mesi. Per esempio, in Danimarca non c'è stato il divieto di uscire di casa, no? Uno può andare ovunque, ovviamente la maggior parte delle cose erano chiuse, quindi uno poi aveva, però insomma, sport all'aperto si può fare, si è sempre potuto fare, ci si poteva incontrare in gruppi di 10 persone, le ristrettezze non sono state così forti. Allo stesso tempo però in Danimarca, ma questo non lo vedevi neanche prima della pandemia, non è molto usuale vedere grupponi di persone, insomma secondo me anche il lato culturale e sociale fa la sua parte, nel senso che i danesi in generale, non voglio generalizzare, però insomma è una cosa che si nota, cioè andando in giro è rarissimo vedere grupponi di persone, quindi non devi fare neanche delle regole che ti evitano, no? Gli assembramenti, perché questi non sono pratica comune in ogni caso, e devo dire che la polizia non è dovuta intervenire, perché appunto sono pratiche che non sono comuni dal punto di vista di come la socialità danese si manifesta. E questo anche, per esempio, qui da noi, insomma, c'è stata tutta una serie di delazioni dai balconi, quindi una sorta di formazione dei cittadini spie. Lì questo fenomeno si è verificato, non c'è stato per niente, oppure già c'era in altre forme? Allora, questo fenomeno si è... la polizia ha provato ad introdurre questo sistema con cui si potevano in qualche modo denunciare in maniera anonima persone che si comportavano in maniera non prevista dalle norme del lockdown. E c'è stata però una grande levata di scudi, c'è stata una grande protesta anche dal punto di vista governativo, perché a quanto pare, almeno a quanto ne so io, questa è stata un'iniziativa proprio della polizia che ha provato sul proprio sito ad introdurre questo meccanismo in cui si potevano fare queste denunce. C'è stata una levata di scudi e alla fine questo qua è stato ritirato dopo un paio di giorni. Quindi ora non so di preciso se ci sono state segnalazioni con altre forme, però tendenzialmente quello che posso dire è che non è stata incentivata una caccia alle streghe per scovare gli untori. Questo non c'è stato, anche leggendo i giornali non c'è stato questo settore di dover trovare il colpevole a tutti i costi. Cioè, sicuramente la percezione che ho avuto è stata molto diversa dall'Italia, dove sembrava, no, in qualche modo che la colpa di tutto fossero i vari runners o, non so, persone che non aderivano in maniera fiscale alle varie disposizioni. Qui in Italia, insomma, si sta montando un po' una polemica, sempre con i soliti toni della discussione politica, per quanto riguarda la questione dei migranti, sulle possibili regolarizzazioni temporanee. Lì da voi si è posto il problema, c'è stato un problema, sicuramente ci sarà un altro tipo di integrazione sia di tipo istituzionale che sociale. Negli ultimi anni ha implementato una politica anti-immigratoria molto molto forte, anche il partito che è ora al governo, che sono socialdemocratici, si sono negli anni spostati verso posizioni molto di destra. La Danimarca penso che in Europa una delle legislazioni più dure dal punto di vista dell'immigrazione, addirittura è possibile sequestrare per esempio i gioielli dei richiedenti asilo o tutti i beni di valore nel caso loro fossero costretti a dover fare le spese, quindi vengono proprio confiscati tutti i loro averi. Quindi diciamo la Danimarca fin da prima aveva un flusso migratorio molto controllato e diciamo questo non è cambiato di recente. Nelle ultime elezioni ci sono state l'anno scorso, quando ha vinto il centrosinistra e si è alleato con partiti come la Lista Unitaria, partiti molto più di sinistra, queste politiche migratorie sono state un pochetto riviste, ma comunque restano ancora, nessuna legge è stata abrogata, restano ancora tra le più restrittive d'Europa. La pandemia in sé, quindi tutta la questione coronavirus e lockdown, non ha cambiato molto tutto questo rapporto. Qui diciamo di immigrati irregolari ce ne sono, non lo so, ora non saprei darti dei numeri, ma non è proprio, cioè non è sicuramente una problematica. Un controllo molto stringente ai confini, e non essere in regola in Danimarca diventa veramente complicato, perché tutto si fa in maniera digitalizzata e è molto molto difficile vivere qui senza essere in regola. Quindi non c'è un sommerso così diffuso come quello che sta in Italia, quindi diciamo che la pandemia non ha messo alla luce una problematica che invece si ritrova appunto nel sud Italia o in altri posti in Europa. Allora, per quanto riguarda insomma gli aiuti, gli incentivi che sono stati prodotti lì da voi, puoi dirci qualche cosa? Sì, allora la Danimarca ha subito messo in campo questi aiuti che prevedono il pagamento fino al 75%, con un limite di 3.000 euro al mese per dipendente, per tutte quelle aziende private che in qualche modo rischiano la chiusura, quindi immagino ristoranti, ristorazioni che sono completamente chiusi e non hanno per esempio potuto implementare delle soluzioni tipo takeaway o delivery, a patto che non avessero mandato via nessun dipendente. Quindi tutti quelli che immediatamente hanno fatto un po' gli stronzi, diciamo, quindi hanno chiuso e hanno licenziato, mandato a casa, perché in Danimarca tra l'altro è facilissimo, non esiste articolo 18, non esiste niente. Dal giorno all'altro è possibile mandare un dipendente a casa senza giusta causa, diciamo, no? Semmai esiste la giusta causa. Però, insomma, quindi chi ha fatto questo tipo di intervento, quindi licenziando un sacco di dipendenti, non ha diritto ad avere questi bonus. Chi invece ha aspettato un pochetto e quindi ha mantenuto tutti i dipendenti sul proprio libro paga, può accedere a questi bonus per situazioni ristorantini, è comunque un aiuto importante. Allora, noi non possiamo che ringraziarti per questa corrispondenza e quindi averci dato una visione della Danimarca e quindi un po' del Nord Europa con la sua socialdemocrazia. E ti ringraziamo ancora, e qualora ci fossero delle aggiornamenti o particolarità possiamo risentirci. Sicuramente, grazie a voi. Grazie e buona giornata.